Alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Deon sono in compagnia del duo Dondarini dal Fiume. È un duo tradizionale della comicità bolognese da ormai 9 anni. Chi parla per primo? Questo è un po' un problema perché se parlo prima io volevo cominciare lui, ma se parla Certo. prima lui volevo cominciare io. Quindi Sì. adesso parlo io. Infatti parlare con voi insieme è una continua È gag. un problema, no, è proprio un problema, non Sì. è una gag. No, sì, siamo qua il 15 di ottobre al Deon, quindi mi raccomando, vi aspettiamo col nostro secondo Perché hai spettacolo. iniziato con un no? No, siamo qua, siamo qua, Siamo sì, qua, siamo sì. qua. Allora, sì, siamo qua, ma Cioè, no, dai un forse, peso alle ma forse parole. perché mi aveva fatto una domanda che dovevo rispondere no. No, Adesso non mi no. ricordo la domanda, però se tu sbagli No, perché le probabilmente è segno di chiusura. Ma non solo tu, molte persone iniziano. No, perché? Che non c'entrava No, niente. cominciare con no è un segno così di imbarazzo in quel momento Ma non ho e cominciato non con ha un no. Sì. significato logico. Aspetta. Comunque, c'è il vostro secondo Sì. spettacolo, il primo si chiamava Insieme per sbaglio e questo secondo si chiama Ma chi ce l'ha fatto Chi ce l'ha fare? fatto fare? Quindi, ed è un po' anche l'idea del nostro percorso dove ci siamo ritrovati per sbaglio e abbiamo cominciato questa avventura. Poi, in questi 9 anni, ci siamo guardati e ci siamo detti: ma chi ce l'ha fatto fare? Quindi troverete, diciamo, un Beh, po'. trovano della quotidianità perché sono cose che possono capitare a tutti e poi i più bei complimenti le persone ce lo fanno quando dicono c'era un'atmosfera che mi faceva stare bene, non so perché. È vero, questo ci capita, ci è capitato, e sì, ci sono scene, diciamo, di vita, chiamiamola quotidiana, alternate da altri momenti dove si risaltano un po' i nostri personaggi, le nostre Beh, comunque tu caratteristiche. per esempio fai una certa prova, perché io sembra sempre che sia qui per criticarti. Io voglio complimentarmi per la tua capacità anche di cambiare ruolo, di cambiare anche modo di parlare, voci, insomma, fai una prova d'attore, scusa, in questo senso. Intervengo io. In effetti li ho visti alcune volte, un paio d'anni fa anche al Deon, fu una serata veramente bella perché c'è questa continua trasposizione di ruoli. E fra l'altro Davide prima diceva in conferenza, tra il serio e il faceto, diceva una cosa anche importante, cioè voi vi siete conosciuti assolutamente per sbaglio, appunto per un errore di scaletta a Zelig, Sì. credo. In una serata dal vivo di Zelig, ma eravamo già in quello spettacolo da quasi più di un anno, ma non ci eravamo mai rivolti la parola perché non interagivamo in scena. Ecco, e quando siete stati costretti a interagire avete scoperto una possibilità enorme di comunicazione tra di voi. E questo appunto, giustamente, adesso tu metti sempre tutto sullo scherzo, però fa capire come il teatro in realtà può far incontrare le anime delle persone e quindi abbattere delle barriere che anche volutamente poi ci mettiamo all'esterno. Cioè, per assurdo puoi essere più vero, puoi metterti più a nudo sul palco che nella vita di tutti i giorni. È un po' violenta questa società, per cui ci creiamo queste pareti che poi dopo diventano la nostra gabbia, poi se non stiamo attenti. Ci proteggono ma ci imprigionano. Questa in effetti è una cosa importante. Hai sentito il maestro ha detto una cosa. Lo ascoltavo volentieri perché oggi si vede che è anche ispirato e quindi quando è così ispirato io, e fa parte proprio del nostro sodalizio, quando io vedo dall'altra parte una fonte di creatività ne rimango colpito e va alternati dei momenti di creatività a altri momenti che non sto qua a sottolineare, che comunque rinvigoriscono il rapporto come in tutte le coppie. Esatto, allora ricordiamo la data vostra, 15 ottobre. il 15 ottobre al Teatro Deon, il duo Dondarini dal Fiume con Ma chi ce l'ha fatto fare? Esatto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a te, Sergio. Ciao.